dice? Buonasera. Buonasera, Luca da questa parte. Sì, sì, sì, ti ho riconosciuto Marco da quest'altra. E beh, è interessanti novità per noi. Sì, che da lunedì sono a casa con l'influenza, per cui nessun aggiornamento. E poi con questo tempo, anche se è arrivata in ufficio, comunque non potrei gattarla. Ah, però è arrivata. Ma sinceramente non lo so, era prevista la consegna oggi. Io non ho chiamato, i miei colleghi non mi hanno detto niente, magari è arrivata sulla mia scrivania, però non so nulla. Guarda, sembra una barzelletta, ci sarebbe da fare, è che è un paese estero, un macello, ci sarebbe da fare il reso e chiedere il rimborso, guarda. Sembra davvero una barzelletta, ma tra l'altro non capisco alcune cose, cioè arriva a Milano dalla Germania, da Milano la mandano giù nel sud Italia, perché lo smistamento di sud Italia, isole fanno giù, e poi da questa città di giù, che non mi ricordo se Foggia, l'hanno mandata a Bentivoglio, e da Bentivoglio probabilmente la mandavano verso qua, cioè fanno i giri più assurdi. Al sud Italia, guarda, io una volta solo per un pacco ho avuto una cosa del genere strana, così, era andata tipo sud Italia, se non mi ricordo dove, e ho detto ma hanno sbagliato indirizzo e la consegnano giù. Io ci ho fatto tutto un giro strano, sembrava quasi quella storia del viaggio di partenza di Borat, che per arrivare in America dal Kazakistan aveva fatto 1000 giri avanti e indietro, non so se conosci il film. Guarda, adesso vado nel sito della UPS e ti dico che giro ha fatto, che per me è incomprensibile questo sito. Guarda, avere pazienza, perché poi come pacco è lungo anche. Allora, la Venom che avevo ordinato, che praticamente è tipo la tua, e la scatola è lunga 1,30 m, cioè non è un pacchettino qualsiasi, no, è lungo 1,30 m, stretto sì, col lato di 10 cm, il lato quadrato, e il lato lungo è 1,30 m, però a fargli fare il giro della fangala mi sembra strano, vabbè. Però ripeto, è capitato anche a me solo una volta per un pacco, che si è fatto il giro d'Italia e poi è arrivato da me, però è arrivato. Allora, questo è dal sito di UPS, partito da Germania, praticamente è arrivato prima a Milano, poi è a Bentivoglio deve essere il sud Italia, e poi cosa vuoi che ti dica? Ecco qua, allora, da Nuremberg, Germania, è arrivato il 5 a Milano. Poi il 7 abbiamo smistato erroneamente questo pacco che potrebbe causare ritardi e l'hanno mandato il 7 a Bari. Sempre il 7 alle 20:30 partito dal centro Bari, l'8 arrivato al centro Bologna, l'8 sempre, questa è la mattina, la sera dell'8 partito dal centro Bologna e l'8 alle 21 in transito, arrivato nel centro di Bentivoglio. Ah, Bentivoglio. Sì, però vedi, c'è stato un errore, però caspita, da Sassari a Bentivoglio lo spedizioniere deve aver letto parecchio male. Scusa che sto fumando, c'ho un po' di tosse, mi è sembrato di sentire un break avanti. Oh, c'era qualcuno che chiamava sotto ma non passava e niente, non bussa più. Sì, ma dalla Germania arriva a Milano, scende a Bari, sale a Bologna, poi va a Bentivoglio, che non so manco dov'è. Questo ieri era Bentivoglio. Sì, infatti è strano, vabbè, un disguido. Io dalla Germania qualcosina di elettronico, elettromeccanico, qualcosa l'avevo presa, ma grazie a Dio, guarda, 5 giorni, se c'era sabato e domenica di mezzo al massimo 7 giorni, ma eccedendo, ma erano di una puntualità, il corriere penso fosse DHL, sì. Bentivoglio è più o meno metà strada tra Bologna e Ferrara, Bentivoglio. E va Vabbè, lei vuol dire che ce l'avrò lunedì, ma intanto con questo tempo, con questo vento, non è la cosa di salire sul tetto. Il colmo sarebbe se questo pacco lungo mi arrivasse piegato a metà, allora sì che è la beffa. No, speriamo di no, speriamo di no. Però anch'io per questi pacchi stretti e lunghi, anche che fosse un'antenna veicolare, sai, quello è un pezzo unico, no? Metti che sia lunga un metro, che non puoi piegare. Anch'io ho sudato freddo per un'antenna veicolare. Poi penso un'antenna veicolare con base magnetica, però un'antenna veicolare da 80 euro, cioè ti costa quanto un'antenna da tetto, ho capito? Eh sì. Vabbè, portiamo pazienza, altrimenti cosa ci posso fare? Andrò da Fusaro e chiedo se ne ha lì, ma incrociamo le dita e speriamo che lunedì sia qua. Non credo che poi da Bologna, insomma, è un volo e basta, e poi dovrebbe essere consegna. Figa. Ma poi guarda, ben ti voglio, proprio per volerti bene, sembra una presa per il coso, vabbè. Sono dei pasticcioni, poi dei corrieri, non sentite altre, cose folli, tipo qualcuno proprio testimone li ha visti lanciare i pacchi dal camion, che bello alto, no? Per terra, lanciati, magari dentro c'era roba elettronica, computer, chissà, magari anche radio, c'è roba delicata, cazzo, non vuoi fare così, no? Guardi, anche io mi occupo di trasporti, però vabbè, un altro standard, un altro tipo di trasporti. Però quando mi dicono le scuse a me, gli dico guarda che facciamo lo stesso lavoro, non mi dire che ha bucato o che si è bucato il radiatore o che l'autista si è sentito male, perché sono le scuse che uso anch'io. A me francamente non piace la storia della firma, anzi della non firma, perché una volta il Corriere, che fosse SDA, Bartolini, DHL, tutti facevano firmare, cioè chiedevano se eri tu, se qualcuno aveva qualche dubbio magari che vi la faccia strana per cavoli tuoi, ti chiedeva se poteva per favore vedere un documento, no? Ma era meglio così, cioè firmavi tu. E certi ti mollano i pacchi nel portone oppure nel giardino di casa, no, sai, magari col portoncino anche aperto, entra uno e se lo porta via. Per esempio, l'hai mai visto quei pacchi in America, quei video in America dove mettono i pacchi davanti alle villette, davanti alle porte, no? Poi si fermano macchine di sconosciuti, vedono il pacco, corrono, lo prendono e scappano. E qualcuno per ovviare a questo ha messo dei finti pacchi, praticamente gli scoppia in faccia una vernice colorante, capito? E li fa, o una polvere colorante, li fa tutti colorati. Io ho visto qualcosa in rete, mi ha fatto ridere, simpatica come cosa. E io non guarirò più. Cavolo, questa influenza non passa più. Ah, ma tu c'hai proprio influenza già conclamata, perché io appena sento un po' di sintomi, tipo, sai, quelle punturine alle ossa, ai muscoli, o senti una stanchezza strana, inusuale, subito mi piglio di notte a cena una massiccia dose di Vivin C, sarebbe aspirina con vitamina C, bello carico, Di solito, se proprio non sei già preso, dovrebbe aiutare, dai. No, ma l'influenza è virale, se ti prende, ti prende. Io ho avuto martedì avevo la febbre a 39, tosse a crepatura, imbarazzo di stomaco alla grande, e poi sono stato da martedì, vabbè, senza descrivere più di tanto i sintomi del bagno, però no, l'influenza è pesante, ti fa molle, la febbre già ti svuota, ha voglia di prendere tachipirina 1000, sciroppo per la tosse e quant'altro, però non ho mangiato tutti questi giorni perché non mi ci scendeva. Oggi mi sono fatto il brodo di pollo con le patate, le patate, cipolle e carote dentro, e ho mangiato e bevuto perché poi non volevo prendere liquidi perché stavo andando troppo in bagno facendo acqua, però poi poi uno va incontro alla disidratazione, quindi oggi ho deciso di farmi il coso, il brodo di pollo, e ho mangiato tipo ospedale. Io ero refrattario di solito alle influenze, ho preso da mamma aveva preso la famosa asiatica, che era stata una bella batosta anche quella, no? E da quel ceppo originario si era immunizzata per quasi tutte le influenze nel corso di questi decenni, e probabilmente l'ha trasmessa a me, perché influenze, guarda, raramente ne ho prese, però grazie a Dio mi pare due o tre anni fa mi viene questa influenza natale terrificante, brividi da battere i denti, febbre alta quasi a 40, guarda, sono stato 3 giorni malissimo, e non era Covid, perché ho fatto anche il tampone casalingo, poi si è ripresentata un mese dopo, pensa, stavo benissimo, si ripresenta di nuovo il freddo, coso, io ho mai avuto queste cose, e poi si è ripresentato anche mesi dopo, lo stesso a distanza di un mese, tipo agosto o settembre, una cosa del genere. Però è proprio da che parti. Vabbè. Buonasera! L'altra sera mi sono coricato che avevo un freddo, ma un freddo da incredibile, cosa che io, insomma, in casa, se non sto in mutande quasi, no? Ma freddo, avevo i brividi, non sapevo dove stare, mi sono coricato con i brividi. Alle 3 del mattino mi sveglio, ero un bagno di sudore, ma non sudore per modo di dire, no? Sudore che mi gocciolava la fronte, i capelli completamente bagnati, ho cambiato la federa del cuscino, mi sono fatto la doccia alle 3 del mattino, perché ero bagnato, il pigiama mi stava iniziando a dare di nuovo freddo perché era completamente bagnato addosso, una cosa incredibile. Ciao Gianni, ben entrato, buonasera, avanti. Buonasera a tutti, non so chi ci sia, ho acceso adesso perché ho finito adesso di cantare. Ah, fai sempre parte del gruppo? Guarda, per adesso ho premuto la portante prima, stavo parlando l'eco, è entrato Luca con l'antenino ancora, perché questa antenna gliela stanno facendo sospirare, però una volta che risolverà sarà contento, dai. Vai Luca per Gianni. Buonasera Gianni, però io non ti ho sentito. Ci siamo parlati sopra o non mi arrivi, ma mi sembra strano. Non lo so. Questa antenna che fine ha fatto, Luca? La tracciabilità non ce l'ha. Luca, non lo copia Gianni. Gianni lo vedo di portante a palla, ma di radio a 0, qualcosa. Ma non lo sento, non lo ascolto. È strano perché a te ti sto ascoltando fortissimo, cioè proprio bene, un radio 5 e segnale a palla. E a lui aspetta, la portante fortissima, ma radio nulla. Aspetta, no, già stai uscendo bene. Ti volevo chiedere Luca, non è che per caso hai inserito un autosquelch dell'apparato? Penso di no. Prova Gianni, fai un passaggio bello. Vabbè, guarda, non lo so se mi stai copiando adesso. Io sto scendo sempre normale come tutti i giorni. Sì, ora ti ricevo, non lo so cosa deve essere. È strano, non ho toccato niente, ma ora arrivi. A te Marco, sempre normale. Sì, buono, ottimo, 9.30. No, sai perché gli ho chiesto dell'autosquelch? Me l'ha fatto anche a me adesso, un attimo fa. Allora, quando è l'autosquelch, è dentro una stazione, anche se è fondo scala, però è molto forte di emissione, l'autosquelch la interpreta quasi come QRM e tende a chiudere. E quindi tu vai a parlare e ti chiude la modulazione. Allora devi togliere l'autosquelch e mettere l'autosquelch normale, tanto da chiudere il QRM, tutto lì, ecco perché gliel'ho chiesto. Vai Luca. Io non ho spiegazione, anche perché io autosquelch non ne ho in questo vecchio Alan 48, però poi l'ho sentito bene, meglio così. Dipende da te, sicuramente qualche cosa ce l'hai. Io sto pompando oggi, eccezionalmente sto pompando. Io pompo quando mi capita. E Gianni, a Gianni già gli piace pompare. Ascolta, quindi sei sempre in quel gruppo di canto, dai. Ma vi vedete anche in video o è solo l'audio? No, c'è anche il video. Chi si vuole mettere il video preme la telecamera e si fa vedere. È una figata. Ma cos'è, tipo videoconferenza? Per caso cos'è, Meet oppure quella che ha sostituito Skype, come si chiama? Ma che ti fa vedere le varie persone nello schermo? Mannaggia, non mi viene. No, si chiama Star Maker. Ah no, allora è una cosa a parte. Uno è Meet, scritto Meet di Google, e l'altro è sostituisce Skype. Hanno fatto una gran cagata, scusate il termine, e Skype quindi non c'è più, l'hanno sostituito con questo programma di cui non ricordo mai il nome, che però c'ha mille problemi. Ed è tipo videoconferenza, lo usano quelli che danno gli esami da casa, chi studia assieme da casa, da varie città italiane, si riuniscono tutti in una stanza virtuale, hai capito? Anche con l'insegnante, ti può interrogare, può rispondere, una figata. No, qua fanno anche le feste, per dire se c'è un compleanno, fanno le feste, invitano tutte le famiglie a cantare nella loro stanza, nella loro room, dai. Oppure, cosa ti posso dire, fanno la festa perché aumentano di livello la stanza, ogni volta che aumenta la stanza ti dà l'audio migliore, ti dà colori diversi da poter fare, da poter colorare la stanza, insomma, come vuoi tu, capito? E via, va bene. Ok, va bene, riprendi Luca che vado un attimino a bere. Noi utilizziamo o Google Meet oppure Zoom per lavoro, dipende da chi ci interpella, ma ogni tanto facciamo delle riunioni con altre aziende di fuori e ci dicono a quest'ora collegatevi con Google Meet e facciamo delle call, che oramai si parla solo in inglese in giro, no? Facciamo delle call. Poi tipo videoconferenze sono anche. No, ma dove sono io proprio è un'app dove si canta, capito? Ci sono i contest, eccetera. Come se fossero le piccole gare, dai, ecco. Beh, una cosa carina, una cosa per passare il tempo, così conosci gente, eccetera. No, già, io intanto vado su queste chat roulette a dare un'occhiata. L'altra notte una mi ha fatto vedere le tette in webcam. Ma io, cazzo, va. Vuoi vedere il video? Ma dove vai? Che sito? Pare chat roulette oppure Home TV, vedi gente casuale. Il problema è che sei costretto a far vedere il viso perché sennò ti bannano. Infatti questa tipa sicuramente è stata bannata perché poi ha perso di botto il segnale, c'è stato un piccolo scarto e poi tac, è sparita, perché è vietato far vedere le parti intime. E tu cosa ti fai vedere? No, io non faccio vedere nulla, io guardo e basta, io sono un guardone, già lo sai, quando andavo a San Francesco, che mi dicevi sempre, col baracchino andavo, no, e tu, era a vedere le coppiette. Sì, ma non ti ho scherzato, anche se è vero che lì vanno le coppiette perché ci hanno avanti. Successo a San Francesco, tu hai fatto le lasciato. Ci racconti di bello. Stai controllando la tracciabilità di questa antenna. Tu, eccomi. Ho detto, la stai controllando la tracciabilità di questa antenna, a vedere dove si trova. Poco fa ne parlavo, abbiamo controllato la tracciabilità e dalla Germania è andata a Milano, da Milano l'hanno mandata a Bari, a Bari hanno detto che è stata mandata per errore, l'hanno mandata prima a Bologna e poi è andata a Bentivoglio, e questo è aggiornato a ieri sera, a Bentivoglio è tra Bologna e Ferrara, poi da Bentivoglio, che penso sia un centro svistamento, la metteranno su qualche aereo e arriverà domani, ma posto che sabato e domenica l'ufficio è chiuso, credo che arriverà lunedì. Uia, già l'ha fatto di giri, sempre per errori loro però, ma che se lo sarebbe stata già qua. Ehi, diavolo, ma anche la pazienza viene meno alla fine. Se avessi visto che era in me, io ho visto il prezzo, l'ho vista che mi piaceva, l'ho presa, poi ho realizzato dopo che arrivava dalla Germania, altrimenti avrei cercato un'antenna di qualche venditore qua in Italia. Ma anche in Germania non ci mette molto, perché di solito io le cose che ho dirato anche dalla Germania al massimo ci metto una settimana e arrivo. Lo so, io mi reputo un grande compratore da internet, c'è Temu e AliExpress che oggi ormai mi fanno il cestino natale per ringraziarmi, perché prendo veramente tanto e non mi era mai capitata una cosa così. Beh, io ogni due mesi almeno prendo il mangime per i pappagalli, perché qua non c'è, perché mi sono le tarine e mangiano un pastone che qua non vendo. No, io prendo tanto e tra l'altro sono uno di quelli che dicono che questi siti cinesi sono buoni, molti li criticano, molti mi dicono che sono cinesate. Io ho avuto l'esperienza di dover comprare due contagiri per la barca, che originali costavano 270 euro l'uno. Li ho presi delle stesse dimensioni, programmabili da AliExpress, e li ho pagati 36 euro l'uno, da 2,70 l'uno a 36. Li ho piazzati, li ho configurati, sono anche retroilluminati col colore che vuoi e ho risparmiato una marea di soldi e vanno benissimo. Se trovi l'articolo giusto sì, ma già ci sono anche le cose che sono cavolate. No, ma anche su Shei, quello lì, mio figlio compra tutto lì, giacche, cravatte, pantaloni, ma tu devi vedere, mio figlio veste benissimo, e sono tutte cose belle, tutte cose, va bene, sceglie lui, guarda quelle che gli piacciono. Io sono un po' contrario, perché a me la cosa mi piace vederla, toccarla e farla per mettermela addosso, ma lui si compra tutto, camicie, giacche, di tutto, il cappotto si è comprato molto bello. Sì, ma è così, si saltano tanti passaggi e poi la merce alla fine è simile a quella che si trova qua, solo che non hai la possibilità di vedertela addosso, ma se uno ha il fisico regolare, che non c'ha la pancia e che c'ha una taglia giusta, compra lì e fa un figurone. Sì. No, già si compra bene, qualche cosa l'abbiamo presa anche per me, però diciamo che bisogna saperla scegliere la cosa, e secondo cosa prendi sono cose belle, secondo cosa prendi magari sono fesserie. Andà bene, ma ci vuole la carta sempre appresso, io non ne ho di carta, ma le ho dire a mio figlio quando ce l'ha lui, io no, io sono un po' contrario. Beh, io per non mettere mai a rischio il bancomat, diciamo, mi ho fatto una carta ricaricabile e quando devo acquistare qualcosa vedo quanto costa e la carico di quel tanto e faccio l'acquisto, in modo che se la intercettano e la clonano e vanno a fregarmi i soldi non acciappani. Per cui se devo comprare una cosa che costa 55 euro ne carico magari 60 e faccio l'acquisto e ne lascio 5 a fondo, ma le che va mi fottono 5 euro, dovessero mai clonarmela, ma non gli do spazio di entrare sul mio conto, capito? Luca, anche mia moglie aveva la Post P, ha caricato 200 euro per comprare una cosa, come le ha caricate le hanno rubate, e si è trovato, è andato a pagare un'altra cosa e dalla banca gli avevano bloccato la carta, dalla posta gli avevano bloccato la carta, è andato alla posta e gli hanno detto che gli avevano praticamente prelevati i soldi, che l'hanno bloccata per quello. E lui ha detto, ma posso recuperarli? No, no, assolutamente. Poi noi avevamo un amico che era in pensione, che lavorava alle poste, e che era anche una persona, diciamo, che contava le poste. In un mese ce l'ha fatto recuperare, però intanto quella lì gli aveva detto che non poteva recuperarle, capito? E meno male che hanno preso la Poste P e c'erano i 201. Se fosse stata invece la carta di credito, quella sul conto, magari iniziavano a svuotarlo e il casino era più grande. Sì, ma infatti non si mette mai la carta di credito, stiamo scherzando. No, ci vuole sempre una carta virtuale, no? Una carta che loro non possono prelevare nulla. Cioè, se ti prelevano, ti prelevano quel poco che metti e basta. Vabbè, 200 li ho presi anche io su internet. Avanti. Oh, Marco. Sì, allora, io utilizzo la prepagata Hype. Mi pare legata alla banca Sella, mi sono trovato bene, come ha detto Luca, ti metti i soldi di quello che vuoi acquistare su internet, puoi bloccare le funzioni dall'applicazione in qualsiasi momento, cioè tu una volta che hai i soldi puoi bloccare il ritiro bancomat, i pagamenti online, oppure un'altra cosa ancora, oppure tutto assieme, oppure una delle varie opzioni. Quindi tu ci metti i soldi, il momento che devi pagare qualcosa da comprare, togli questo blocco, paghi, una volta pagato e accreditato, rimetti il blocco se ci sono altri soldi residui, per esempio, no? E così almeno non toccano nessun conto, capito? Perché sarebbe rischioso. Cos'è Western Union? Western Union? No, Hype, è una carta di debito, c'era scritto. C'è la carta di credito, magari la chiamano carta di debito, cioè adesso in dettaglio non ti so dire, cioè tu ci metti i soldi e puoi spendere solo quei soldi che ci metti, la ricarichi al tabacchino, in qualche edicola, in banca stessa, anche se trovano mille scuse che non c'hanno tempo, che qua c'ha, eccetera. Fai prima al tabacchino, capito? Come mai hai scelto quella con tutte quelle show, PayPal, PostPay, eccetera, più conosciute? Come mai hai scelto quella, Marco? Ciao anche a Carlo, ha fatto break. Io ho guardato online, c'era sia PayPal sia un'altra carta di cui non ricordo il nome, forse Nexiv, una cosa del genere. E il bello che te la mandavano a casa, non dovevi andare in banca né nulla, tu la richiedevi dal sito, ti arrivava a casa, l'attivavi con l'applicazione, con l'impronta e tutto, è pratica. Invece con quella del Monte dei Paschi ho avuto solo rogne, mi hanno fatto fare mezzo mondo di documentazione per averla e qui non me l'hanno mandata, nonostante avessi richiesta. Io allora ho cancellato tutto, applicazione e tutto, mi dispiace ma così non funziona. Avanti Carlo, buonasera. Ciao Marco, ciao Gianni, forse c'è anche Luca, non so chi altro ci sia, no, stavo sentendo della carta Hype, che io la uso da penso più di 10 anni, l'ho fatta fare anche a miei figli quando erano minorenni, uno era stato negli Stati Uniti, l'altra è stata un anno in Australia. E la carta ha sempre funzionato perfettamente, io l'ho usata negli Emirati Arabi ed era un bonbon di carta prepagata e praticamente la carta Hype è gratuita, diciamo il modello base, ha il circuito Visa, e funziona benissimo e la puoi caricare anche se hai l'applicazione della tua banca con un bonifico immediato, perché praticamente è munita, una volta che la apri c'hai il codice IBAN, hai un conto, capito? Io a miei figli gliela carico così, faccio un bonifico dal mio conto e gli arriva subito e io c'ho subito il riscontro e come ha detto Marco si appoggia alla banca Stella. Io ho lavorato per 10 anni ai sistemi di pagamento al Banco di Sardegna, quindi di carte ne so qualche riga, comunque una delle migliori è questa carta Hype, sicura al 100%, si appoggia alla banca Stella e usa degli ottimi circuiti e funziona in tutto il mondo e lo posso testimoniare io personalmente perché l'hanno usata miei figli in diversi emisferi, Australia, Stati Uniti, io l'ho usata negli Emirati Arabi, io l'ho usata in Europa, in giro, e ha sempre funzionato perfettamente, cosa che invece le carte di credito delle banche si bloccano. Io mi trovo bene con quella del Banco di Sardegna, si chiama PayPal, perché dal telefonino stesso entro nel mio home banking e faccio ricarica prepagata, scrivo solamente quello che voglio ricaricare, quando voglio ricaricare, invio e mi arriva il messaggio, carta ricaricata. È una cosa velocissima e comodissima. A me mi avevano rubato 200 euro da internet, lo sai. Stavano vendendo un Galaxy Saturn Echo e c'era l'asta su eBay e io stavo partecipando. A mezzanotte mi hanno fregato, culo ha rilanciato e mi hanno fregato. Mi hanno fregato da sotto il naso. Era arrivato a 170 e questo qui ha offerto 200 e se l'ha preso. Poi dopo un paio di giorni mi è arrivato un messaggio da questo qui, ho visto che stava gareggiando per sì, io quando io vendo a Parigi Radio e ne ho due magazzini invenduti, praticamente nuovi, ma io metto tutti dalla scatola, sono ancora nella scatola. Gli sto dando 200, regalo anche le MB più 5 insieme. Niente. E l'abbiamo preso in due. Abbiamo prima controllato tutto il sito, era un best seller, eccetera, eccetera. Praticamente c'erano tutti i buoni requisiti, eccetera. Però era fatto tutto da lui, capito? Si era fatto tutta la pagina col corriere, tutto grande. Abbiamo ordinato questi due apparecchi, abbiamo parlato con lui, ha detto sì, va bene, vi rimando, mandatemi subito i soldi, pagate con Western Union. Io non avevo mai sentito questa di Western Union. Ha mandato la moglie a pagare, poi abbiamo telefonato e non rispondeva più. Dalla polizia postale ci hanno detto che praticamente è un'organizzazione che praticamente guadagna molti soldi al giorno, vende macchine fotografiche che poi non mandano mai. Praticamente vanno in Inghilterra, comprano una scheda telefonica che possono parlare loro, poi la buttano via e non sono rintracciabili. Quelle sono un po' le truffe che ci sono online, eccetera, ho capito. Rilancio Marco, dai. Ehi, aspetta che abbasso il ricevitore un attimo, aspetta che abbasso, ecco qua. Dicevo Carlo, oggi siccome voglio chiare la vista, che stavo guidando sono riuscito a vedere la bazooka, quella avendo più spessore si nota di più, dai, e quindi ho visto l'installazione temporanea, ecco. Sì. Devo ancora abbassare un altro pochettino il rosso perché è sempre alto, 2, 2, 2, l'altro giorno era 2, adesso 2, 2, provo un po' a staccarla verso l'esterno allungando con un braccetto che mi sono procurato in ferro, lo attacco alla ringhiera e poi vedo un po' di spostarla, magari si abbassa così un pochettino, perché il cavo l'ho tagliato della giusta misura, è perfetto, e quindi dovrei riuscire a fare abbassare le stazionarie, dai, un pochettino. Comunque dai, adesso che sto parlando devo chiudere perché sto aspettando una persona e mi ha mandato un messaggio adesso che sta arrivando. Quindi sono entrato giusto a salutarvi, avevo acceso un attimo, ascolto il vostro finalino, dai, e poi ci sentiamo sicuramente domani nei prossimi giorni, perché domani sera sono tranquillamente a casa per 2 giorni e quindi ci sentiremo. Ciao Gianni, ciao Marco, ciao Luca e non so chi altri ci sia, dai, ascolto il vostro finale mentre aspetto che arrivi questo amico, perché devo uscire. Alle prossimine, ciao a tutti. Ciao Carlo, ciao, buon divertimento, dai. Ci sentiamo, avanti, va. Ciao Carlo, dai, buona passeggiata, buon tutto. Ci sentiamo nei prossimi. Vai Luca. Ciao Carlo, buona serata e buona cena quando arriverà il momento. A proposito di Galaxy, ho visto su internet, ora sto guardando, che stanno vendendo un Galaxy Saturn a sorso, 220 euro. Ah, sorso, sarà già di coso. Come si chiama? Davide Solinas. Ah no, allora non è lui, è il fratello forse. Deve essere di Gianni, ho capito. Può dipendere dalle condizioni, io i prezzi non li so già. Certo, il Saturn è sempre stata una bella radio, ingombrante per i miei gusti, cioè ingombrante, la poi difficilmente imboscabile in pochi secondi, già sai come la penso. Sì, ma io non mi sento nell'autoascolto, che strano. Stai uscendo, tranquillo. Sai perché? No, perché sto usando il mic normale, quindi sì, un po' si sente, va bene. Vediamo se Luca può riprendere. Oh, sta entrando una iazza qua, perché io ho lo spiraglio della finestra per far passare il cavo del ricevitore, la finestra è, c'è sempre uno spiraglietto. Sentiamo quest'aria gelida, io ho le... vabbè, sono vestito, però ho questi fantasmini, queste calze sottili, mi sta ghiacciando i piedi. O mi porto la stufa o mi metto i calzettoni. Vai Luca. Marco. Emo. Io su internet ho comprato un aggeggino che sembra un giocattolo, che ha la temperatura regolabile, e ti emana l'aria calda, ma lo sai quanto è bellino, per una stanza va bene. Ma lo attacchi alla 220, elettrico? Sì, c'ha praticamente di quelle spine, quelle americane, l'attacchi direttamente alla presa, perché io ho proprio le prese adatte a quel... Ecco, lo attacco lì, poi c'è l'accensione, c'è acceso spento e poi c'è la temperatura, sino a 32 gradi arriva. Ma sono quelli che consumano poco, no? Quelli che pubblicizzavano in televisione, però in televisione te li facevano pagare 59 euro, 49 euro, poi dai cinesi lo vedevi 10 euro, 12 euro. Ma io non me lo ricordo sinceramente quanto ho pagato, perché l'ho preso già 3 o 4 anni fa. Ma per dire, se quando attaccano il riscaldamento, che c'è un po' di freddino, me lo attacco e mi riscalda, è bellino, dai. Almeno per una stanza, vabbè, certo non puoi pretendere che ti scaldi tutta la casa. Sì, però ho visto delle pubblicità veramente ingannevoli, tuttora mi li vendono tuttora, anche mamma l'aveva preso dai cinesi. Per esempio, se stai nel gabinetto, seduto sul trono, tu lo metti proprio davanti e ti scala proprio quel metro quadro dove sei seduto tu, capito? Ti manda un po' di arietta calda e fin lì va bene, però le pubblicità ingannevoli che ci sono ti dicono che ti scaldano in poco tempo una camera di 120 metri quadri fino a 30 gradi, ballisti, bugiardi. Padre, che una piccola resistenza con la ventola che emana l'aria, non è niente di che. Anzi non l'ho più visto qua, boh. L'abbiamo accantonato, sai, lo usi una volta, poi lo accantoni un po', perché se no l'altro calorifero consuma 1000 o 2000, quello sempre con la ventola, no, è la resistenza, consuma un bel più di quanto serva. Se sei seduto sul gabinetto, quello piccolo andava anche bene. Sì, ma secondo cosa mi ci troverò sciolto pure. Va bene. Bianco per me un attimo, che vado di nuovo a bere, tanto per cambiare. Vai Luca. Oh, si è sentato Luca? Non lo so, non lo riprende. A meno che quella la parte dove stia facendo brutti scherzi. Io sto mangiando caramelle tutta la sera alla menta, perché ho la gola a pezzi. Dopo quell'influenza mi ha lasciato la tosse, mi asciuga la gola, mi fa tossire come me ne escono gli uni. Parla con uno. Luca, ci sei? Eccomi, sono andato a prendere direttamente la bottiglia dell'acqua, l'ho portata qua, frizzante ovviamente. Oh, io frizzante non è bello, mi piace c'è naturale. La pensate che bevevo io era la San Martino, ma non esiste più. Quella vi facevo anche la menta con la San Martino, sembra che la faceva buona. Ah sì, con la menta, sì, piaceva a me molto anche lo sciroppo di menta con l'acqua, oppure con il latte. Latte e menta, che mi pare al bar lo chiamino Tropical, Tropical, se lo fanno pagare anche 3 euro, un po' di latte e un goccio di menta, 3 euro. Così, sì, anche con l'acqua te lo fanno pagare così 4 euro, 4,50 euro, al bar ti fanno pagare, invece vai da lì, ti compri la bottiglia, la paghi una gazzata, ti dura, la metti in frigo, ti dura un bel po' di tempo. Te lo fai come vuoi tu, non con la pena appena di menta che manco si sente il sapore, quando ne mettono poca, mettono un po' di acqua e appena appena di menta per colorarlo, ma la menta io si deve vedere proprio verde il bicchiere quando la bevo io. Infatti, siccome poi va sul fondo, no, mettono l'acqua nel bicchiere, io metto la menta, voglio vedere almeno due dita di menta sul fondo, poi la mischi col cucchiaino lungo ed è buona. Già te la fa, addirittura 4 euro 4,50, ma a Sassari o tipo Alghero, quelle zone turistiche. Ah, io l'ho presa con Tortone, ascoltatori. Vabbè, l'estate ci sta anche perché c'è turismo, magari ne approfittano un po'. Vediamo se è rientrato Luca. Io l'estate quando prendo qualcosa al bar prendo quella, la menta con l'acqua gasata. Sì, guarda, io ho caffetteria o bibite, alcolici mai, fuori pasto niente alcolici, a pasto mi posso bere un bicchiere di birra limone, vedi, in quella in lattina, birra limone, quella è bella sfiziosa, perché a me l'amaro della birra normale non piace. Roba blanda insomma, però fuori pasto no, fuori pasto no. Perché la birra bisogna berla fresca, calcarata, se no senti troppo l'amaro, invece quando è bella fresca manco te ne accorgi, è proprio amabile la bere. E non so, ma la me o bevo birra o bevo limonata, e quella è la ragione, non posso bere birra limone, non mi piace. I gusti sono gusti già, comunque rispetto a quella normale, a me quella normale non mi si vale, io vedo che tutti bevono birra ai bar, ma dalla mattina presto anche le ragazze e coso, però boh, io la sento amara. A me, guarda, l'unica birra che piaceva veramente era quella al triplo malto, quella rossa, a me, grazie a Dio, però c'è una gradazione alcolica molto alta, cioè ti crepa quella, fuori pasto, poi se devi guidare guai, trovi la stradale, ti fa del chilometro, addio patente. È quella che a me non piace, è tutto il contrario di me, sì, a me quella rossa non piace, mi piace, io bevo, guarda, Moretti, bevo Echilusa, bevo birre tedesche, spero sempre bionde. Quale che piaceva a cosa, Paoletto? Nastro azzurro, ti dico, da nastro azzurro, come c'aveva la remuccia. Era gottura senza bis. Invece guarda, una che è proprio fiele, per me è la cosa più schifosa, a molti piace, la birra Guinness, quella nera, mi pare non c'è manco schiuma, sembra petrolio, e anche il sapore, allora è amara come il fiele, uno schifo. No, a me è amare così non mi piace, guarda, io quella che preferisco è la chiusa, o la Heineken. Perché sono più amabili, non sono molto furti e non sono manco amare come birra. Poi c'è quella tedesca, quella che prendo io in lattina, quella lì ficcurica, è forte, è bionda ma è forte. Ma a me quando mi faccio per dire il pollo con le patate, con una salsetta particolare con il peperoncino eccetera eccetera, come buona, e allora per accompagnare sera che ho bevuto un bicchiere di birra, però non sempre, ce l'ho sempre in frigo la birra, però la uso solo in determinate occasioni, quando prendo la pizza, quando mangio qualcosa di piccante. Luca da questa parte, a proposito di birra, io le bevo tutte e ne bevo tanta e mi piace da morire, e sono 2 mesi che non ne bevo perché sono a dieta e sto bevendo la birra 00, che è una finta birra, però in mancanza d'altro già va bene anche quella. La conosco, comunque quella tedesca che prendo io è un bel forte, è un bel forte, ti muove il capo in giro. Ehi, ma 00 intendi zero alcol, quella praticamente analcolica? Esattamente, la birra 00 è quella zero alcol, che l'alcol con la dieta non va d'accordo. Sto bevendo la Poretti, la Poretti 00. Ed è buona, buona, non è la birra, però si avvicina molto. Se vuoi dare retta a uno che ha fatto una dieta, è sceso 50 kg, quello che ti consiglio io è di limitare le cose, di mangiare di tutto, perché il nostro fisico ha bisogno di tutti i nutrienti. Se tu elimini e fai, non ci sei. Io mangiavo di tutto, però regolato. Ti ricordi già quanto mangiavo poco quando andavamo in pizzeria anni fa, ICB, no? Io, guarda, a me bastava una pizza ed ero già crepato. Invece qualcuno di voi riusciva a fare vari giri di, ti ricordi, chi pigliava frittura di mare, poi un'altra cosa, poi magari un'altra cosa ancora, no? Io c'ho lo stomaco piccolo già. Ma ti volevo dire, l'ultima birra che avevo bevuto normale, no, proprio per provarla, per quanto non ami la birra normale, no, era quella birra Raffo, lavorazione grezza, che facevano pubblicità in TV. E francamente io differenze non ne ho sentito, cioè a me dai 10 marchi di birra, questa com'è? Birra, quest'altra birra, sempre birra. Di carino aveva la bottiglietta l'ho conservata, era, ricordati, Raffo lavorazione grezza. Io una volta sono andato a Valeduria con la famiglia e siamo andati in un ristorante a mangiare, no? E mi ha detto: che cosa bevete? Io gli ho detto: una bottiglia di birra, me la porti? E che birra vuoi? E gli ho detto: guarda, se c'è Chiusa o se no Heineken. No, noi birra Mondezza non ne trattiamo, noi solo birra tedesca. Questo dice che era stato in Germania, ma ha conosciuto tutti i tipi di birra e la birra che fanno qua non la tratta nemmeno, solo birra tedesca. E gli ho detto: ma tu non puoi dire che è Mondezza, a te non piace, ma ci sono le persone a cui piace. Sì, ma io sono stato in Germania a fare il cameriere, prima di aprire la pizzeria facevo il cameriere, il pizzaiolo in Germania, e lì usavano solo, ma lì sono in Germania, per forza usano birra tedesca, o no? Allora, prima di andare via stasera, che oramai è ora di andare ai fornelli, vi do un consiglio e anche un invito. C'è una birreria, anzi, sì, proprio una birreria, dove fanno la birra, la fanno proprio loro, ed è praticamente vicino al Bar Le Vele, in regione Sant'Angeli, giù, andando alla motorizzazione, a fianco dove c'è l'istituto di vigilanza dove avevano fatto la mega rapina, a fianco c'è la distilleria di birra, che ha anche la birreria dove fanno loro la birra. È da assaggiare, è di un buono allucinante, la stanno premiando in tutto il mondo, questi ragazzi sono molto attivi, la stanno pubblicizzando, stanno girando, vanno alle sagre della birra, ritirano premi, ed è qualcosa di spettacolare, buona, buona veramente. Se ne avete piacere di andarci o anche di andare insieme, vi offro la birra io. Ora però vi saluto e mi accingo ad andare ai fornelli e niente, grazie della chiacchierata e ci sentiamo alle prossime. Ciao Luca, ciao, buon appetito quando mangi, dai, ci sentiamo, avanti Marco. Eia, va bene, buoni fornelli, buona preparazione, buona cena, buona digestione, buon tutto. E ci sentiamo quando capita. E oggi già, io ho sbirciato, ma non ho sentito nessuno stasera, a parte noi tre, me. Non ho sentito altro. Perché però ti gli orecchi di porco, sai quanta gente c'è che sta ascoltando? A voglia. Cosa ti stavo dicendo, Marco? Oggi ho fatto tutto quanto, tutto scombinata la giornata, ho mangiato alle 3, poi mi sono coricato, mi sono svegliato alle 6:30, ho dormito un po' come maiale, ho dormito. E poi praticamente mi sono messo a cantare, dai. Verso le 6 mi sono svegliato, mi sono messo a cantare, poi ho mangiato un po' di quelle caramelle perché c'è sempre la gola asciutta. Via. Comunque per me, Luca stava dicendo che era influenzato, tosse forte, e ho sentito passare gente in strada tossendo forte, ma ad uscire negli occhi mi. E probabilmente è per l'influenza che c'è in giro, quindi lui affollati, tipo quando sei dal medico che si riempie di gente, io la mascherina me la sto portando, ma non per me, per mamma, per tutelare mamma, forse per me me ne fregherei. Io dal medico mi sono di andarci, io per le ricette, le mando la richiesta, mi manda le ricette su WhatsApp, e io la mando sempre su WhatsApp alla farmacia. E mi dice venga domani a ritirarmi, io vado e me le ritiro, solo per ritirarmi. Ma sì, allora, il mio medico, la mia dottoressa per fortuna risponde al telefono, cioè ha una segretaria, faccio anch'io così. Allora, quelle bianche le deve ritirare di persona, quelle, già hai capito, quelle bianche, le chiamavamo bianche, quelle altre te le manda tramite mail, però diciamo che il 90% di quelle che chiedo sono tutte tramite mail, ma le stampo al computer. Purtroppo la mia stampante, dopo anni e anni di onorato servizio, sta stampando male, e quindi per me è un problema, devo cambiare stampante. Invece la dottoressa di mamma ha una segretaria, ma non rispondono mai al telefono, mai. Quindi tu certe volte vedi queste persone anziane che camminano male col bastone, col coso, devono andare lì per chiedere l'appuntamento per vedere la dottoressa, cioè non ti fa entrare subito, tutto appuntamento, quindi loro si devono trascinare dal medico, parlare con la segretaria, chiedere l'appuntamento e poi ritornare, oppure chiedere le ricette, se solo ricette, però devono andare di persona. E allora cosa serve questo numero di telefono? Io non ho capito. Poi è strano perché è come se fosse un centralino generale, no? Mentre una volta telefonavi anni fa alla dottoressa pre-Covid, no, alla vecchia dottoressa, e ti rispondeva lei in persona col suo numero privato, adesso c'è questo centralino che ti mette in attesa, che ti dice sempre che sono oberati di chiamate e non possono mai rispondere. Io non, guarda, post-Covid hanno incasinato tutto. Si va dal medico solo per appuntamento, non so se sia così anche con il tuo, devi telefonare, certi non rispondono al telefono, devi andare di persona per una ricetta, e tanto vale che sei lì, te la ritiri di persona. Infatti ti dico, non la mandi tramite mail, me la dia cartacea, che c'è la farmacia a fianco, e compro i farmaci direttamente lì. E anche io compresco dal medico, c'è la farmacia di fronte. Ma il mio fai la fila, chiedi chi è l'ultimo e ti fai la fila. Ma c'è sempre il mondo, c'è le fuori, c'è le dentro. Questo qui è sempre confuso, questo dottore, non ti fa il sorriso, manco, porca l'idea. Ti chiede le cose, qui è sempre su chi va, no? Ti chiede delle medicine, ti dice, quando è che le ha prese gli ultimi, quante ne sono rimaste? Si conta le medicine che prende, dite guarda che io non prendo gusto a chiedere le medicine, se le sto chiedendo è perché non ci le sto finendo, non posso aspettare di fila, perché le mie sono medicine che sono salvavita, quindi non posso che... Adesso mi hanno dato questa iniezione, Marco, che si fa una volta alla settimana per abbassarti la glicemia. Che cosa? 380 euro. Mi era sembrato di sentire un break, ma è perché te la devi pagare di tasca? Tu, non avendo la patologia appunto del diabete, non dovresti essere esente. No, no, noi non la paghiamo, però... Il dottore mi ha detto, guardi che non se la venda, perché queste medicine qui servono anche per dimagrire, perché fanno passare la fame, quindi è una cosa che aiuta i diabetici, perché i diabetici sanno benissimo che hanno questa fame innata, ogni volta ti viene questa fame da morire, e ti fa passare la fame, e infatti da quando sto facendo questa iniezione la glicemia è sempre perfetta. Sembra perfetta, però noi non la paghiamo, però dice che c'è gente che la prende e non, che la, se la fa ordinare, però non la prende, se la vende, capito? Siccome costa un bel di soldi, guadagnano un sacco di soldi a venderla, magari la vendono 200 euro, capito? Ah, ecco, ho capito, Oh già, ma c'è cosa che sta piangendo, Tyson vuole uscire sicuramente. E infatti stavo per salutarti, dai. Stavo per fare l'ultimo passaggio, salutarti perché mi sta chiamando. Va bene, dai Marco, vai, mi ha fatto piacere. A lui che intendere. Ehi, già, c'era un break prima, ho sentito qualcosa sotto, non è entrato nessuno, va bene, ciao già, buona serata, buona passeggiata, io cambio stanza che no, che avevo freddo da questo spiraglio, per carità. Vado bene, dalla finestra. Cioè io ho fatto il buco per far passare il cavo del baracchino che è grosso, però per mettere questo cavo provvisorio per il ricevitore, devo tenere la finestra un po' socchiusa e da quello spiffero là dove passa il cavo entra un freddo che non ti dico, ma anche perché sono con le calzine sottili, capito? Ah, ecco perché. No, io non avevo fatto il buco, poi l'ho sigillato con silicone bianco, non si vede nulla, e proprio sembra nemmeno che sia stato fatto il buco, tutto attorno al filo gli ho messo il silicone bianco. Diga, qua male che vada farò un altro buco, diciamo che era provvisoria la cosa, volevo vedere se ricevevo qualcosa, bene o male i radiomatori di Sassari arrivano. Va bene già, buona passeggiata, buon tutto e ci sentiamo, ciao, buona serata. Buona pigliata di freddo. Ciao ciao, buona serata anche a te. No, già mi accendo la stufa in camera adesso, e la zitta. No, la mia non è passeggiata, è a prendere freddo che va. Ehi, copriti bene, ma se ti copri bene, che ti copri o ti copra, ma se ti copra bene, non succede niente. Anche sciarpa se necessario, barretto, eccetera. Io non li sopporto, i cuffie, berretti, nulla, non voglio niente in testa, solo le corna. Ciao già, ciao. Ciao, ciao, Marco.